Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la sesta edizione della rassegna cinematografica itinerante L'Ape Rossa in diversi luoghi della città dal 22 luglio al 2 agosto 2019. Aurora, ben trovata. Grazie, ben trovati a tutte e tutti. Vedi, mi hai ricordato quanti anni sono che facciamo L'Ape Rossa, perché... Sono semplicemente andato a vedere l'intervista dell'altro anno. È fantastico, perché ci cominciamo a fare tutti un po' vecchietti anche quest'anno. Però no, veramente quest'anno poi devo dire ci siamo anche sdoppiati, perché sai che c'è... Una doppia sezione. Esatto, cioè abbiamo l'estate romana e abbiamo anche l'arena, per cui siccome siamo bravissimi, abbiamo vinto tutti e due i bandi e quindi la Rossa si sdoppia. Siamo dal 22 al 27 appunto nel cortile della centrale Monte Martini e dal 29, giusto il tanto di riprendere fiato, dal 29 luglio al 2 agosto in piazza di Andrea la Mariana, dove già siamo stati anni fa e ci è piaciuto molto ritornare lì, che poi è il nostro municipio, quindi insomma, ci teniamo molto a questa edizione perché ci radichiamo sempre di più sul territorio. Ok, raccontiamo a chi ci ascolta cos'è L'Ape Rossa. L'Ape Rossa, diciamo, nasce come un modo per portare il cinema, no? Con questo veicolo appunto agile, per portare il cinema dove il cinema è più difficile trovarlo, per cui è nata nel 2013 nei piccoli paesini della Toscana, poi nei piccoli rioni, nei piccoli quartieri romani, periferici, e dopodiché abbiamo voluto un po' creare un format, che è quello un po' di un'iniziativa multiforme che parte dal pomeriggio e attraccia un po' tutte le forme artistiche, perché parliamo di esplorazioni urbane, visite guidate, noi faremo delle visite all'interno del museo della centrale Monte Martini, ogni giorno un tema differente. Continueremo con un momento dedicato ai bambini, con delle letture all'aperto nel nostro cortile, per proseguire appunto con il teatro. Quest'anno abbiamo voluto inserire anche il teatro, ci piaceva l'idea di lavorare tanto sulla conservazione della memoria, per cui c'è tutto un percorso di monologhi, di reading dedicato a questo, e lo spettacolo, diciamo, centrale quest'anno sarà quello musicale, quindi alle 21:30 curato da Emiliano Torquati, che è un nostro, diciamo, musicista amico che ci ha seguito già nelle due edizioni precedenti, musicherà, sonorizzerà il nostro materiale di repertorio, un esperimento quest'anno, devo dire, davvero molto interessante, tematico. Ogni sera sarà affiancato Emiliano da un musicista differente, abbiamo con un grande batterista lunedì 22, Greg Hutchinson, con un tema dedicato alla guerra e alla pace, quindi insomma delle cose molto molto interessanti. Ci sono dei fuori programma, delle sorprese, quindi scriviate, lasciare anche un po' di suspense, perché vi vogliamo tutti qui ovviamente. Senti, per quanto riguarda il cinema più stretto, quanti sono i titoli che presentate? Durante il 22-27 luglio ci saranno soltanto i documentari che abbiamo realizzato quest'anno nei tre mercati, dove siamo andati un po' a raccontare, a costruire delle narrazioni, delle nuove narrazioni, per cui ci saranno dei documentari, tre nuove produzioni che sono di Montagnola, di Grotta Perfetta e di Ostiense, e mentre la parte, diciamo, proprio dell'arena, che sarà dal 29 luglio al 2 agosto, ha un tema specifico che si chiama 50 sfumature di donna, appunto il cinema che racconta l'immagine della donna e il suo ruolo un po' nella società. Sono 5 serate costruite nel classico modo del corso prima del film nuovo. Anche lì ci sono dei video, cioè, proiettiamo, i bambini ci guardano di De Sica, Arrangiatevi di Bolognini, insomma tutti bei titoli importanti. Angela Prudenzi ci affiancherà per l'introduzione dei film e degli ospiti. Siamo molto felici, molto contenti e anche molto stanchi, però aspettiamo di vedere queste belle piazze belle affollate. Ecco, questi due appuntamenti come saranno organizzati rispetto agli orari e alle proposte? Noi passiamo dal 22 al 23 qui alla centrale alle 17.30 con la Rossa in Favola, proseguiamo con la Rossa al Museo 17.45, proseguiamo ancora alle 19.15 con la Rossa Esplora con i Walkabout insieme a l'associazione Urban Experience guidata da Carlo Istante. Continuiamo alle 20.30 con la Perozza in Scena, appunto con la parte più dedicata al teatro, e alle 21.30 la Perozza racconta con il documentario, e 22 la Perozza suona, un appuntamento imperdibile, tutto il pomeriggio con noi fino a sera tardi. E per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Certamente, la pagina Facebook del Perozza, la pagina Facebook dell'archivio televisivo del Movimento Italiano Democratico, il nostro sito www.amos.it. Ricordiamo allora la Perozza a Roma in due piazze dal 22 luglio al 2 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, perché è proprio la Mod che organizza. Aurora, un abbraccio, in bocca al lupo, grazie, e a risentirci presto. Grazie mille, un saluto. Ciao. Ciao. Con Fabio Mancini di Doc 3 per presentare la stagione estiva di Doc 3, Cinema del Reale, dall'11 luglio al 4 ottobre 2019 su Rai 3. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, grazie di avermi chiamato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Raccontaci un po' di questa stagione estiva. Questa stagione che stiamo preparando, intanto partiamo, come hai detto tu, più tardi per arrivare un po' più avanti nel palinsesto pre-autunnale, quindi copriamo l'estate e ci allunghiamo fino all'inizio di ottobre. Questo è, insomma, una cosa che ci fa molto piacere. Quest'anno abbiamo uno slot molto interessante, spero. Insomma, abbiamo cercato di alcune cose che avevamo visto negli anni precedenti, che avevamo trovato tra Beach e Festival, si sono concretizzate e quindi sono diventati documentari. Molti italiani che raccontano l'estero, e quindi questa è una cosa che ci piace molto. Una produzione proprio di Rai 3 e anche due titoli di Rai Cinema, quindi insomma diciamo che abbiamo mischiato un po' tutte le carte. Nel complesso quanti titoli e qual è il giorno settimanale di programmazione? Allora, giovedì in seconda serata, in classico, sono 13 titoli, andremo in onda per 13 giovedì. Ci hai fatto un po' una panoramica, volevo chiederti un po' nel complesso quali sono stati i criteri di scelta. Guarda, i criteri di scelta, abbiamo cercato di portare avanti un po' una linea che l'anno scorso era stata premiata, che ci era molto piaciuta, insomma, e penso piaciuta anche agli spettatori. Qualcosa, una formula che fosse un po' diversa, che mantenesse il rigore del documentario narrativo, ma si aprisse anche a un'idea di reportage che potesse darci uno spettro ancora più ampio, quindi mettendo in gioco sì personaggi forti, ma anche molta vita, molte dinamiche, molte intersezioni di quello che raccontiamo. E ci sembra anche quest'anno di essere riusciti a mediare tra tutte queste varie prospettive che ci piacevano molto. Tra i 13 lavori, quali sono le tematiche più forti, magari più battute? Lavoriamo veramente su canali molto diversi e al tempo stesso omogenei. Siamo in Africa, faremo un giro per l'Europa, ovviamente l'America, parleremo del cibo, dei padroni del cibo, ma anche di moda. Ovviamente parleremo, e questo per noi è molto importante, di migrazioni, e questo per Doc3 è sempre un focus che cerchiamo di mantenere acceso, ma anche di disabilità e di molte altre cose, insomma. Quindi abbiamo cercato di lavorare in più direzioni. Un bilancio dell'ultima stagione? L'ultima stagione siamo stati molto contenti, come ti dicevo prima, ci è sembrato che anche, come posso dire, non nei limiti, ma certamente nel rispetto della messa in onda su una televisione generalista, siamo riusciti a spingere esattamente dove volevamo, quindi a fare un passo in più rispetto poi al racconto del reale che viene fatto quotidianamente su una rete come la nostra, quindi con approfondimenti, con finestre, con focus. È come se avessimo avuto l'opportunità di fermarci un momento, riaprire un po' la mappa e raccontarla in una maniera diversa, quindi mi sembra che sia integrato benissimo poi nel racconto generale che sta facendo Rai 3. Al di là del web, a tuo modo di vedere, lo spazio riservato al documentario nel cinema e nella televisione? Ma sì, su questo ci confrontiamo continuamente, insomma. Io continuo a essere sempre molto, molto positivo. Non posso non ricordare che quando sono arrivato qui 5 anni fa non era neanche ipotizzabile un'uscita in sala di un documentario, era qualcosa di eccezionale, assolutamente sporadico o rinchiuso nel festival. Penso che adesso ci si possa confrontare con questo genere, trovarlo in sala è sempre più facile, tra virgolette, sempre ovviamente nei limiti imposti, ma è una possibilità che si è aggiunta, è qualcosa che è entrato molto di più in un alfabeto di comunicazione narrativa e visuale, insomma. Mm-hmm. Nella TV di Stato c'è un rispetto, c'è una maggiore attenzione? Ma io continuo a definire Doc3, in questo momento parlo per la mia esperienza, come un'isola abbastanza felice, nel senso che noi abbiamo non solo la libertà ma anche il supporto per poter scegliere storie che reputiamo importanti, avere un programma, uno slot fisso che diventa un appuntamento per tutti gli spettatori. Durante l'anno sono andati in onda, parlo sempre per la nostra rete, numerosi altri documentari che hanno fatto comunque degli ottimi ascolti, quindi la richiesta c'è, l'attenzione c'è, e poi ovviamente nel grande mare dei palinsesti quest'anno ce ne sono stati extra Doc3 e molti altri, quindi io sono soddisfatto. Senti, risposte del pubblico ce ne sono state, ci sono stati rapporti con chi vede? Sì, quello è una cosa che a noi piace moltissimo, insomma, è successo adesso per esempio che abbiamo fatto questo nuovo promo e ci hanno scritto in tantissimi, volevano sapere quale fosse la musica che avevamo usato, le immagini, a quali documentari si riferissero, ci chiamano associazioni, scuole, per sapere se è possibile organizzare delle proiezioni, quindi c'è tutta una vita extra televisiva molto vivace, che è quello che noi, a cui noi puntiamo, insomma, ovviamente c'è un passaggio televisivo, c'è Rai Play con il web, ma poi incontrare davvero la possibilità di arrivare alle persone nei contesti più diversi con i documentari è quello che ci auguriamo ogni volta, insomma. State pensando anche a proiezioni pubbliche unite ad incontri con autori e autrici? Guarda, quello è qualcosa che a noi ovviamente piace tantissimo. Le volte che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo presentato prima della messa in onda il documentario sulla Grecia, Athens Blues, ed è stata una serata magica perché c'erano gli autori, la sala della Casa del Cinema era strapiena ed è stato un momento di incontro e di dibattito, quindi noi siamo sempre molto molto aperti rispetto a questa possibilità. Ovviamente sentire osservazioni, ma anche critiche o rispondere alle curiosità poi dal vivo è qualcosa che noi ci auguriamo sempre, insomma quando capita ci siamo sempre. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Sì, assolutamente. Allora, voi potete trovare tutto quanto ovviamente sulla pagina Facebook di Doc3, c'è il Twitter, sono tutti assolutamente semplicissimi. Dopo la messa in onda, quindi del giovedì, da poche ore dopo, potete ritrovare tutti quanti i titoli su RaiPlay, c'è proprio lo spazio dedicato a Doc3, ma lo trovate subito, probabilmente in focus già dalla mattina dopo. Quindi speriamo di aver messo in piedi tutta la possibilità di fruizione. Capisco che non è facilissimo ormai aspettare l'appuntamento preciso della messa in onda televisiva, però c'è tutto il modo per informarsi, programmarsi, ritrovare le messe in onda e quindi seguire la serie di Doc3. Stagione estiva di Doc3, il cinema del reale su Rai3 in seconda serata dall'11 luglio al 4 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Mancini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a prestissimo, Fabio. Un abbraccio a tutti voi, buon lavoro e buona estate. Ciao. Con Francesca Castriconi, direttrice artistica della terza edizione di Popcorn Festival del Corto, a Porto Santo Stefano dal 25 al 28 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Ciao, grazie per l'invito. Ben trovati. Ci parli di questo festival? Questo festival è, diciamo, l'evento di punta dell'Argentario perché, pur essendo un nuovo festival, questa è la terza edizione, ci teniamo molto sia noi organizzatori che comunque il Comune di Monte Argentario che ci sostiene proprio a pieno. È un festival di cortometraggi internazionale e prevede quattro serate qui di cinema all'aperto all'entrata libera nella piazza principale del paese. Come era nato tutto? L'idea è nata appunto 3 anni fa, pensando proprio al cinema, all'aria aperta davanti a un mare bellissimo al costo dell'Argentario e creando un festival appunto pop, da cui il nome Popcorn, che poi si lega anche allo snack dedicato, ecco, che ricorda molto il cinema, ma popolare appunto per creare un evento inclusivo, quindi a cui tutti possono partecipare, quindi ci sembra una cosa molto importante come crescita soprattutto del territorio. Quanti sono i lavori che presenterete? Allora, i lavori sono 21 cortometraggi che vengono da tutto il mondo. La selezione è stata molto dura perché i film erano veramente molto belli e tanti, perché più di 3.000 cortometraggi provenienti da 115 paesi nel mondo. Il lavoro è stato impegnativo, ma abbiamo scelto 21 cortometraggi che secondo il nostro punto di vista rappresentano al meglio poi il tema guida di quest'anno, che è vita, valore di una scelta. Ci racconti un po' meglio di questo tema? Sì, noi di solito al festival, già dal primo anno, cerchiamo di proporre dei temi universali, affrontati poi dai registi in maniera unica ed originale. E questo tema, appunto, vita, valore di una scelta, l'abbiamo pensato in base al fatto che tutti noi poi siamo il frutto delle nostre scelte, giusto o sbagliate che siano, ecco, della nostra vita. Quindi l'uomo al centro della propria vita, con la libertà di scegliere cosa fare o non fare. Quali saranno gli orari e come saranno strutturate le giornate? Le serate sono strutturate in questo modo: il primo appuntamento è giovedì 25 luglio alle ore 21 al piazzale di Bionica a Porto Santo Stefano, dedicata alla proiezione del primo lungometraggio di Alessandro Capitani, nostro presidente di giuria sin dalla prima edizione, del film appunto In viaggio con Adele, che vede protagonisti Sara Ferraiocco e Aver, i quali incontreranno comunque il pubblico dopo la proiezione. Sarà un appuntamento molto interessante. Per proseguire poi venerdì, sabato e domenica con il vero concorso dei cortometraggi proiettati dalle 21.30. A decidere i migliori cortometraggi nelle due categorie, che sono corti d'autore e opere prime rivolte agli esordienti, saranno una giuria di settore e una giuria popolare. E ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Per saperne di più potete consultare, navigare sul sito www.popcornfestivaldelcorto.it e la nostra pagina Facebook proprio dedicata al Popcorn Festival del Corto. Tra l'altro un sacco di novità e di ospiti prestigiosi, come diceva Alessandro Ades, Sara Ferraiocco e una giurata di eccezione che è Raffaella Carrà, che sarà presente nella serata di domenica per premiare il miglior cortometraggio. Terza edizione di Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 25 al 28 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castricone. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo tutti qui a Porto Santo Stefano. Un abbraccio. Con Alberto Crespi, co-direttore della 25esima edizione della rassegna del film restaurato Narni, Le vie del cinema, a Narni dal 22 al 27 luglio 2019. Alberto, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo cos'è Le vie del cinema. Le vie del cinema è un festival che, andando all'indietro nel tempo, prende il nome da una cosa bellissima, ovvero dal fatto che a Narni Scalo, la parte moderna di Narni, che invece nella parte antica è un borgo medievale meraviglioso, nella parte moderna che sta in pianura dove c'è la zona industriale, molte vie sono dedicate a cineasti. Il comune anni fa ha cominciato a fare questa cosa molto bella e poi ha deciso di seguire la campagna lanciata dall'allora ministro dei beni culturali Walter Veltroni, che invitava ogni comune d'Italia ad adottare un film a restaurarlo. Furono pochissimi, devo dire, i comuni d'Italia che accolsero questo invito, ma Narni lo fece, restaurò a suo tempo l'area di biciclette di Vittorio De Sica e si inventò, con la direzione artistica di Giuliano Montaldo, che poi io ho affiancato, questa rassegna in cui appunto ogni anno mostriamo 6, 7, dipende dagli anni, insomma quest'anno saranno 6 film italiani, in qualche caso anche stranieri, restaurati appunto, quindi copie perfette su uno schermo gigante all'aperto nel Parco dei Pini in Narni Scalo. È un bel posto, un bello scenario, c'è sempre molto pubblico e quindi invito gli ascoltatori a venirci a trovare dal 22 al 27 luglio. Fermo restando che da qualche anno il filo rosso è il legame tra il cinema italiano e la storia italiana, che è secondo me un legame giusto, visto che restaurare i film serve prima di tutto a mantenere la memoria del cinema, del grande cinema, dei capolavori del passato, ma anche la memoria attraverso i film di ciò che noi italiani siamo stati e forse in certi casi dovremmo anche ritornare ad essere, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Parliamo in maniera un po' più diffusa di questi titoli dell'edizione 2019? Naturalmente, sono 5 restauri della Cineteca Nazionale e un restauro del Museo del Cinema di Torino, realizzato a suo tempo in collaborazione con la Biennale di Venezia. Parto proprio da questo, che è l'ultimo titolo, perché è un titolo che secondo me nessuno ha visto, a parte chi era a Venezia quell'anno, nel 2014, quando venne presentato. Si titola Maciste Alpino ed è un film del 1916. Quindi un film girato durante la Prima Guerra Mondiale e con chiari intenti propagandistici, ma è anche un film divertentissimo perché si ipotizza che l'allora divo del cinema Bartolomeo Pagano, che era diventato famoso interpretando Maciste in Cadiria, che era un film sulle guerre puniche, era diventato talmente famoso che poi il personaggio di Maciste veniva collocato nelle situazioni più strane e più bizzarre. In questo film si immagina che una troupe cinematografica in cui c'è Bartolomeo Pagano vada a girare un film di Maciste ai confini con il Trentino. Scoppia la Prima Guerra Mondiale, gli austriaci invadono, fanno prigionieri Maciste e tutta la troupe, regista, tecnici, attrici e tutti quanti. A quel punto però Maciste si ribella e praticamente vince la guerra da solo, prendendo gli austriaci a cazzotti come fosse un Bud Spencer del 1916. Fantastico. È veramente un film molto divertente, anche se, come ho detto, è un film di propaganda. E merita una visita, perché tra l'altro lo faremo con l'accompagnamento dal vivo dell'orchestra e sarà una serata particolare. Gli altri 5 film sono più vicini a noi nel tempo, sono Polvere di Stelle, di e con Alberto Sordi, che è un modo comico, ironico di raccontare però i giorni drammatici e anche grotteschi subito dopo l'8 settembre, subito dopo l'armistizio. Poi Italiani brava gente, che racconta la tragedia della spedizione in Russia dell'esercito italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Il portiere di notte di Liliana Cavani, che è un modo di riflettere sulla memoria dell'Olocausto e sulle ferite che l'Olocausto ha lasciato dentro gli esseri umani. Un altro è Miseria e nobiltà, che non è un film che ricopre un evento storico naturalmente, però è comunque un film che scava nella memoria di noi italiani, di quando l'Italia era un paese dove anche gli italiani pativano la fame, che è qualcosa di cui forse dovremmo ricordarci oggi, che qua nel nostro paese a patire la fame sono altre persone. E infine San Michele aveva un ballo di Paolo e Vittorio Taviani, che è uno dei più bei film sul risorgimento italiano. Naturalmente sarà anche un modo di ricordare sia Vittorio Taviani, che è scomparso con più di un anno, sia oggi l'attore protagonista, che invece è scomparso da poco, poco dopo aver visto questo restauro, che ci tengo a dirlo, questo è un restauro che la Cineteca Nazionale ha fatto su richiesta di Martin Scorsese, perché quando Martin Scorsese è venuto l'anno scorso ha chiesto che Paolo Taviani fosse la persona che gli avrebbe dato il riconoscimento, il premio alla carriera che la Festa di Roma gli assegnava, e ha chiesto espressamente di poter rivedere San Michele aveva un gatto, perché è uno dei film della sua vita. E noi gliel'abbiamo restaurato apposta, e dopo Martin Scorsese lo sottoponiamo anche al pubblico, al più italiani possibile. Come sta andando più in generale l'attività di restauro? L'attività di restauro prosegue, sia la Cineteca Nazionale che la Cineteca di Bologna continuano. La Cineteca di Bologna, come sappiamo, è un'eccellenza. Sta lavorando anche la Cineteca di Bologna per statuto, lavora anche su film stranieri, quindi sta restaurando per esempio l'opera Omnia di Buster Keaton, che è un incarico prestigiosissimo naturalmente. La Cineteca Nazionale, che quest'anno festeggia 70 anni, perché è stata istituita con una legge del 1949, per statuto invece deve occuparsi del cinema italiano. E tra l'altro segnalo una notizia recente, ma ufficiale, che dall'autunno si aprirà una nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, che come sapete ha i suoi corsi a Roma ma anche in altre regioni d'Italia. A Lecce verrà istituita una nuova sede che sarà appunto una scuola di restauro per formare i tecnici del restauro, che è un lavoro complesso, molto raffinato, molto, molto certosino e molto difficile. Il restauro si fa in digitale, ma lo scopo è anche quello di riportare i film in pellicola, perché nel frattempo abbiamo scoperto che il digitale non garantisce minimamente la sopravvivenza dei film oltre una certa data. L'unico supporto sicuro, se conservato nel modo giusto, rimane la pellicola, per cui l'intento è quello di avere a Lecce una scuola e un laboratorio di restauro che copra tutto l'arco, cioè partendo dalla pellicola rovinata per digitalizzare la pellicola, compiere tutte le operazioni digitali necessarie e poi ritornare in pellicola, e solo a quel punto un film è veramente salvo. Quindi ci sono due eccellenze appunto in Italia che lavorano su questa meravigliosa tecnica che consente veramente di salvare i capolavori altrimenti destinati all'oblio. L'unico problema è che restaurare i film costa. Restaurare un film dipende molto dalla lunghezza del film e dallo stato dei materiali. Ma è una spesa intorno ai 100.000 euro per ciascun film. Quindi ci vorrebbero più fondi pubblici, e non è un momento in cui la cosa pubblica, lo Stato, vede la cultura in un modo molto, molto benevolo, ma speriamo che si mettano una mano sul cuore e un'altra mano sul portafoglio. Ci dai tutti i riferimenti web per seguire il programma? Certamente, www.levievedelcinema, scritto tutto attaccato.it è il sito, leviedelcinema@comune.narni.tr, la sigla di Terni.it è la mail per avere informazioni, dal 20 in poi anche i profili social naturalmente, basta digitare Le Vie del Cinema Narni e salta fuori di tutto e di più, e dal 22 al 27 vi aspettiamo. Non ho detto la cosa più importante, è tutto gratis, le proiezioni sono gratuite. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore Alberto Crespi, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto Alberto. A risentirci presto, un saluto a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo. con Enzo Bevar, coordinatore della 14ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra, in giro per l'Italia dal 5 luglio al 5 ottobre 2019. Enzo, ben trovato. Buongiorno Federico, ben trovato a te. Ti chiedo subito in quante tappe e in quanti luoghi. Quest'anno la carovana attraverserà 17 tappe, partendo da Assisi e concludendosi come ogni anno al Festival Internazionale a Ferrara. Da nord a sud, tantissime le tappe, il programma è online, ma magari ne parleremo anche insieme. Sì, ecco, raccontiamo cos'è questo progetto. Libero Cinema in Libera Terra è una carovana di cinema itinerante contro le mafie, nata appunto 14 anni fa sui beni confiscati, diciamo raggiungendo i ragazzi delle prime cooperative di Libera Terra che prendevano in gestione i primi beni confiscati in Sicilia, in Puglia, in Calabria. Negli anni la carovana ha sentito un po' il bisogno di allargarsi al territorio, alle piazze di tutta Italia, quindi non più soltanto del sud, andando a sostenere quelle realtà che assieme a Libera in tutto il paese ogni giorno si impegnano nell'antimafia sociale, ed è diventato tendenzialmente oggi un festival che appunto ogni giorno si ferma in una città diversa, allestisce una sala cinematografica temporanea e soprattutto consente alle persone di riunirsi per vedere insieme un bel film, chiaramente non solo sui temi delle mafie intese in termini stretti, ma tutto ciò che riguarda oggi parlare di questo argomento. Quanti sono i film scelti e quali sono stati i criteri? Quest'anno abbiamo preso una decisione per la prima volta di stringere su un focus tematico. È il primo anno infatti che Libero Cinema dedica tutti i suoi film a un tema che ci sembra urgente e assolutamente centrale per i discorsi e per i temi che abbiamo affrontato in questi anni. La 14ª edizione infatti sarà dedicata al tema dei migranti, grazie alla consulenza per la programmazione di Fabrizio Grosoli, che è al nostro fianco da tanti anni. Abbiamo scelto un elenco di film davvero diversi che affrontano questo tema sotto tante sfaccettature diverse tra loro. Apriremo ad Assisi ad esempio con Ancora un giorno, un film molto bello tra animazione e materiale di repertorio che racconta la storia di Richard Kapuscinski, ma soprattutto quel momento della decolonizzazione che forse non affrontiamo abbastanza oggi per capire le dinamiche migratorie e i temi che leggiamo ogni giorno sui giornali. Tanti altri titoli che parlano di caporalato, che raccontano le crisi migratorie dalla Libia al Mediterraneo, penso all'Ordine delle cose di Andrea Sega e del bravissimo gruppo di Zalab. Insomma, tanti titoli che sono comunque che è possibile comunque consultare sul sito di Cinemovel per un unico obiettivo, quello di provare anche noi nel nostro piccolo a fare luce su un tema che ci sembra sempre più necessario affrontare da un punto di vista culturale e non soltanto securitario. Raccontiamo anche un po' l'esperienza con i ragazzi e le ragazze. Che gruppo avete messo su? Come sempre saremo in 6 persone a viaggiare sul nostro furgoncino di cinema itinerante e i nostri 7.000 chilometri li faremo nel caldo torbido di quest'estate. Una però delle novità che mi piace molto raccontare parlando dei ragazzi e delle ragazze è l'incrocio con un progetto che stiamo avviando anche questo assieme a Libera, si chiama Schermi in Classe. Da settembre a dicembre in 10 regioni italiane porteremo il cinema direttamente nelle scuole, allestendo anche in questo caso sale cinematografiche in tantissimi territori. Con alcune di queste scuole abbiamo già iniziato da qualche mese ad avviare un percorso di partecipazione per coinvolgere direttamente gli studenti nell'organizzazione delle tappe. Sarà bello quindi ritrovarci in piazza assieme agli studenti, assieme agli insegnanti, assieme a quel mondo straordinario che anima le scuole italiane, per provare anche in questo caso a creare una comunità, a fare una rete. E quindi sarà bello credo ritrovarci insieme quest'estate e poi l'anno prossimo, grazie al sostegno del MIUR e del MIBAC, per cercare di ridare centralità alle immagini in movimento che ci sembrano uno strumento necessario oggi per poter affrontare tematiche molto complesse e spesso molto difficili. Ci racconti anche un po' come si svolge la proiezione di un film e se è previsto poi un incontro con il pubblico? Tendenzialmente Federico funziona così, noi arriviamo in una piazza alle 2 del pomeriggio, spesso siamo un po' degli alieni che nel caldo torbido della controra di luglio iniziano a montare, a tirare fuori degli oggetti un po' strani da un furgone, ci avvicinano tante persone, soprattutto gli anziani che sono i primi a presidiare questi territori, ci avvicinano chiedendoci che cosa faremo, di che cosa si tratta. Nel momento stesso in cui iniziamo a raccontare quello che faremo, ovvero una proiezione di un film, un festival contro le mafie, da lì parte già un agorà, le persone iniziano a discutere, nessuno si tira indietro davanti a una discussione su questi temi, e diciamo che la discussione e il dibattito forse nel nostro caso arriva prima ancora della proiezione, proprio perché questo circo di saltimbanchi che arriva su un territorio, parliamo anzi spesso è importante dirlo, di territori che non hanno più una sala cinematografica, che non hanno un teatro, che non hanno una biblioteca, e quindi questa sorpresa del cinema, come l'aveva definita Ettore Scola, che è stato nostro presidente onorario per diversi anni, è forse il là che poi dà il via alla proiezione, e molto spesso, in tantissimi casi, diventa anche il momento in cui poi si ferma assieme ai presidi Libera, alle associazioni, alle realtà che cerchiamo di coinvolgere per commentare, ma semplicemente anche condividere la visione pubblica partecipata. Questo per me è molto importante, perché abbiamo un po' perso, credo, l'abitudine di vedere un film assieme ad altre persone. In realtà già solo riproporre questa cosa, spingere persone molto semplicemente a confrontarsi, a commentare, perché non è come vederlo a casa nel divano su Netflix, quindi guardo un film e poi vado a dormire. Vederlo in una piazza assieme ad altre persone significa vedere un film e iniziare a parlare, che è un po' il ruolo che il cinema ha avuto durante tutto il secolo scorso. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Assolutamente, trovate il programma e anche una serie di interviste che abbiamo realizzato per lanciare il festival su www.cinemobile.tv, l'articolo appunto è quello della festa mobile, vi consiglio davvero di guardare ad esempio l'intervista di Luigi Ciotti che ci ha aiutato anche a mettere al centro il tema dei migranti inteso come sfida civile, e chiaramente poi tutti i social network che potrete trovare citando semplicemente Cinemobile, quindi Facebook, Twitter e Instagram. E allora ricordiamo la 14ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra, in tour dal 5 luglio al 5 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al coordinatore Enzo Bevar. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Enzo. Grazie, grazie mille Federico. Spero prima o poi di vederci anche in piazza, sarebbe molto bello. Bene, ciao. Grazie, a presto. Con Giorgio Ginori, direttore della 25ª edizione dell'Isola del Cinema a Roma, Isola Tiberina, dal 13 giugno al 1 settembre 2019. Giorgio, ben trovato. Ah, ciao, che gioia risentirvi, eccomi qua. L'offerta di quest'anno, che insomma è un'edizione tonda, 25 edizioni. Sì, 25 edizioni. Beh, è un'emozione, perché quando siamo partiti eravamo e siamo ancora dei sognatori, però non era facile, come dire, inserire un'idea vincente in un contesto così prestigioso come l'Isola Tiberina, che è patrimonio dell'umanità, UNESCO. Ah, tra l'altro volevo dire che anche noi nel frattempo siamo diventati un evento UNESCO, faremo con loro degli eventi che sono legati soprattutto all'ambiente, perché quando siamo partiti avevamo questi tre obiettivi. Il primo era appassionatamente dalla parte del cinema italiano, e abbiamo fatto delle edizioni in cui abbiamo portato sull'isola tanti personaggi. Mi ricordo i primi corti di Matteo Garrone, mi ricordo i primi corti e i primi film di Sorrentino, insomma tanto cinema italiano appassionatamente. L'altro obiettivo era quello di far incontrare il cinema italiano e gli spettatori di Roma con il mondo, e quindi abbiamo portato insomma un centinaio di paesi, ogni anno una decina. Quest'anno ce ne sono altrettanti, c'è l'Australia e poi paesi come il Giappone, come Israele, l'India e poi il Canada e poi la Malesia con la musica e naturalmente il cinema, insomma tanti paesi che si affacciano lì sull'isola di Roma e che sono anche interessanti non solo per conoscere, come una finestra per conoscere quei paesi, ma sono interessanti anche come confronto come il cinema italiano. L'altro obiettivo allora, tanti anni fa, era quello di portare sul Fiume una sorta di via Veneto dove ci si incontra, ci si appassiona. Io ogni tanto sono felice perché sento che al tavolo stanno discutendo di un film, un regista con uno sceneggiatore, E mi ricordo Gillo Pontecorvo, ricordo lui a nome di tanti, tanti che ci hanno voluto bene, ci hanno aiutato. Gillo è stato una specie di zio per noi, e mi ricordo che mi disse: dobbiamo creare un luogo dove ci sono quelle furiose discussioni di cinema. E quindi su questi tre obiettivi quest'anno abbiamo aggiunto due altri compagni di viaggio. Il primo è l'ambiente, perché il cinema lo sta declinando in tanti modi, e poi l'ambiente è un po' come l'aria che respiri, è un elemento assolutamente da raccontare e da sostenere, da risolvere. E poi l'altro compagno di viaggio quest'anno è l'innovazione, e cioè, per esempio, chi viene sull'isola troverà che accanto al piccolo villaggetto che l'anno prossimo svilupperemo di più, dove c'è il gaming, dove c'è la realtà virtuale, dove c'è la realtà immersiva, se fa 10 passi e entra nell'arena invece c'è il grande schermo, 12 metri per 10. E mi piace molto questa idea, da una parte di andare verso le nuove tecniche audiovisuali, questi momenti, queste nuove frontiere, no? E dall'altra di conservare il grande schermo. Giorgio, senti, nel complesso quanti sono i titoli proposti? Sono circa 200 film, sono numeri alti, 200 film, sono 30 anteprime, sono 4 schermi. Voglio ricordare che noi abbiamo uno schermo grande e che è rivolto tra l'altro verso i passanti, i turisti di Ponte Fabricio. Questa cosa vorrei sottolinearla perché ogni tanto mi metto in mezzo ai turisti, faccio finta di niente, che passano e dice: wow, look at that, cinema! E questa cosa mi piace molto perché mi piace l'idea che quando tu passi da quelle parti, attraverso il ponte, tra l'altro Ponte Fabricio è il ponte più antico di Roma, e quando attraversi quel ponte il cinema ti appare come fosse naturale. Cioè c'è l'attore dei Caetani, c'è la sinagoga, c'è il fiume, gli alberi e il cinema, come se fosse appunto un elemento naturale del paesaggio urbano. E poi d'altronde si dice che Roma è città di cinema, è la città del cinema, quindi questo gioco mi piace molto. E se lo vedono dal loggione, che ad esempio quando arriva la Verdone saluta il loggione, alza la mano e saluta quello che noi chiamiamo il loggione, io sono felice. Ogni tanto vedo centinaia di persone che sono appoggiate lì sul ponte e io sono contento, bellissimo. Giorgio, chiaramente è previsto l'incontro anche con autori e autrici. Assolutamente, sono tantissimi, insomma tanti, ogni, diciamo così, che fanno parte del concorso opere prime e seconde, e quindi normalmente noi tutti i film che proponiamo li accompagniamo con l'autore, li accompagniamo con un'introduzione fatta grazie agli autori e, quando gli autori vogliono, dibattito sì, dibattito no, ti ricordi questo tormentone? Ho visto che c'è qualcuno che invece vuole fare il dibattito, insomma bello, mi piace molto. Quando vogliono fare il dibattito penso che sia un'occasione bella, così, di stare insieme e appunto di fare cinema e parlare di cinema. Le proiezioni sono tutti i giorni e quali sono gli orari? Noi abbiamo 4 schermi. Lo schermo grande parte al calar del sole, cioè parte alle 9:15. Poi c'è lo schermo Tevere sulla piazza, una specie di agorà gratuito, quello gratuito dove passano film. Ad esempio noi passiamo ogni tanto Totò ed è divertente perché escono da film molto autoriali e poi escono sulla piazza e gli appare Totò, Peppino e la mala femmina, no, per dire, che è divertente. E quella è una specie di agorà dove si fanno anche incontri con gli autori, i letterati, i poeti. Poi c'è pure la musica sulla punta, perché quest'anno, visto che sono 25 anni, ho letto che, sappiamo tutti, no, che il passaggio dal muto al sonoro è venuto, mi pare, nel 1927 o 30, mi ricordo più, grazie al film Jazz Singer. e quindi insomma il jazz ha dato il suono al cinema muto, e allora ho creato una specie insieme ad alcuni collaboratori questo luogo del jazz e anche luogo della musica, dove mi piace pensare che anche quelli che fanno il cinema, ecco, mi piace questa idea che oltre a una jam session con band professional ci siano anche delle jam session, e quindi era così nella mia mente l'idea di creare anche questo laboratorio di musica. E quindi tutti i giorni sono comunque le proiezioni? Tutti i giorni, e poi c'è un altro schermo che è il CineLab, ecco, finisco un altro schermo che è il CineLab, lì sulle sponde dove passano questi film, così, questi film di giovani autori, questi film speciali, particolari, e poi dentro l'ospedale c'è nella bellissima sala dell'Assunta Hospitalis, che è questo luogo del cinema, naturalmente lì passi commedia, non è che puoi passare drammoni, perché insomma stare lì è già, come dire, risolvere dei problemi, e però è bello perché poi i nostri autori, che sia Carlo Verdone, che siano altri autori, vanno lì e salutano questi pazienti che devono star lì, e insieme agli infermieri, insomma c'è tutto questo mondo. Bisogna alleggerire l'ospedale portando una sorta di cinematerapia. Questo è un po' il nostro intento. L'abbiamo fatto al Gemelli 10 anni fa e l'abbiamo fatto durante tutti questi anni, e continuiamo a farlo anche nel bellissimo ospedale Fate Bene Fratelli. Giorgio, oltre ai film stranieri e alle opere prime, ci sono altre sezioni? Beh, c'è la sezione Fuoco sul Reale, che è una sezione dedicata al documentario. Sappiamo quanto il documentario, non solo nell'immaginario, nella creatività, quanto è importante, e quindi c'è tutta una sezione dedicata proprio al documentario. E un'altra cosa che voglio segnalare, un altro momento oltre a Fuoco Surreale, è European Women Filmmaker, e cioè il cinema dalla parte delle donne, perché ogni anno cerchiamo di fare sempre di più, di essere sempre più, come dire, vicini a questo momento del cinema al femminile. E l'altra cosa che volevo dire in ultimo è che, a parte i poeti e l'Isola dei Poeti da 25 anni anche, quindi noi facciamo questi 2 giorni a settimana i poeti, e poi naturalmente ci sono i libri, la letteratura, c'è la fotografia quest'anno, e lasciami dire in ultimo del concorso Mamma Roma e le città metropolitane. Ti ricordi che parlavamo di questo cinema della gente, sì, cinema del reale, no? Ti ricordi? Sì. Quest'anno noi abbiamo portato Mamma Roma e le città metropolitane in 14 città: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, perché è stato creato un distretto che si chiama distretto metropolitano, in cui queste 14 metropoli formano insieme una sorta di Italia contemporanea, un'Italia 4.0, quasi un laboratorio di contemporaneità. E allora noi abbiamo preso contatto con queste città, e Mamma Roma e le città metropolitane è il nuovo concorso aperto a tutti. Diamo pure un premio di 1.000 euro, e però al di là del premio è bello, credo, per i cittadini di queste città e non solo, di raccontare in 5 minuti un'emozione, un luogo, qualcosa che tra documentario e finzione racconta un po' della loro vita, no? Come se alla fine tutti questi piccoli cortometraggi, racconti, sono tanti tasselli di un grande mosaico che è Roma ed è le città metropolitane contemporanee. Giorgio, in chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per seguire il programma? Certo, allora i riferimenti sono la pagina naturalmente Facebook L'Isola del Cinema, ma prima ancora se andate gentilmente su www.isoladelcinema.com trovate tutto il nostro programma e anche ogni giorno carichiamo il sito delle novità e anche dei personaggi, i tanti personaggi che sono passati già sull'isola e dei tanti che torneranno sull'isola da qui al 1° di settembre. E vi aspettiamo che sia dal Ponte Fabricio sull'Oggione o giù nelle sale o nelle piazze dell'isola Tiberina, vi aspettiamo. Grazie di cuore. 25esima edizione dell'Isola del Cinema a Roma, all'Isola Tiberina, dal 13 giugno al 1° settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giorgio Ginori. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto, Giorgio. Crepi il lupo, viva il lupo e grazie, grazie Federico, grazie a tutti voi, vi aspettiamo, grazie ancora. Con Massimo Arcangeli dell'ANEC Lazio per presentare la prima edizione del Cine Village Arena Parco Talenti a Roma dal 21 giugno all'8 settembre 2019. Massimo, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Ci racconti di questa arena? Sì, è un'arena, ma che non è solo un'arena, è parte dal cinema, noi siamo gli esercenti cinematografici, il Cine Village è la parte dominante di questo progetto, ma insieme al cinema ci sono anche tante altre forme di intrattenimento, di cultura, incontri con gli autori per la presentazione di libri, lo sport insieme con il CONI e con le federazioni paralimpiche rivolte ai portatori di handicap, il fitness, la ristorazione, musica dal vivo, organizziamo una serie di concerti collegati insieme al film per creare un evento di contaminazione tra il cinema e la musica, con la scienza insieme al CNR, all'Enea facciamo una serie di incontri di divulgazione scientifica, notti di fantascienza il 27 giugno e una serie di altri appuntamenti, quindi è qualcosa che parte dal cinema che va molto oltre il cinema. Per quanto riguarda lo specifico arena e cinema, quanti sono i film in programmazione? Ma sono circa 80 film complessivi fino all'8 di settembre, poi chiudiamo anche con il Festival di Locarno, portiamo a Roma come ormai da circa 20 anni i vincitori del Festival di Locarno, gli ultimi 4 giorni dal 4 all'8 di settembre e poi tutti i giorni i film che sono il pezzo forte di questa rassegna, incontri anche con gli autori, con i registi, con gli attori. Diciamo il cinema la fa un po' da padrone, ma non solo il cinema caratterizza questa edizione del Cine Village. Sì. Quindi i film sono tutte le sere, tutti i giorni praticamente? Tutti i giorni, tutte le sere, compreso per agosto, quindi andate al mare e poi la sera venite qui a trovarci per trascorrere una serata in compagnia. E spesso anche accompagnati da incontri con gli autori? Sì, quella è la cosa diciamo un po' particolare, ma non solo gli autori di cinema, ma anche gli autori di libri. Noi abbiamo una serie di appuntamenti insieme anche con l'assessore Raimo qui del terzo municipio che ha sviluppato un importante progetto di grande come una città e nel periodo estivo organizza qui una serie di appuntamenti. Visto che si tratta di una prima edizione, com'è nata l'esigenza di creare questo evento? A noi, come penso ormai era diventato un appuntamento fisso dell'estate romana, organizzavamo da 24 anni notti di cinema a Piazza Vittorio. Avevamo vinto il bando triennale, poi per una serie di difficoltà da parte dell'amministrazione c'è stata revocata la terza annualità e abbiamo pensato e condiviso insieme col presidente Caudo del municipio che forse questo territorio che ha circa 250.000 residenti e in una zona un pochino estrema della città potesse accogliere un'iniziativa così impegnativa, importante, qualificante, che ridesse forza a un territorio che come sempre nelle periferie è un pochino più sacrificato rispetto al centro della città. L'idea, il progetto ci ha convinto, il luogo è particolarmente suggestivo perché stiamo dentro un parco